Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Perché vivere in orizzontale ha indiscutibili vantaggi. Puoi guardare le persone negli occhi, puoi lavorare e puoi fare cose più piacevoli. Ecco, a quel punto io, per una risposta sensata, avrei dovuto dimenticare l'ansia, il trapano, il dolore, togliermi di bocca l'aspiratore e, in più, ma non ultima, avrei dovuto trovare la voglia di fare tutto questo. Ho optato per la decisione più ragionevole, quella che in molte occasioni mi ha sempre aiutato. Ho scelto di rimandare. Sono Gianni Bandinelli, vivo a Firenze, lavoro presso un ente pubblico e ho 50 anni. Perché la verità è che non tutti siamo dei predestinati. Anzi, direi, la maggior parte di noi non sono dei predestinati. Non siamo gente che nasce con un fuoco sacro e un'unica strada davanti agli occhi. Non siamo dei grandi campioni di calcio, non siamo dei grandi scienziati. Siamo persone normali che semplicemente trovano la propria strada, la cercano e trovano delle motivazioni per farle. O forse semplicemente le motivazioni arrivano e da lì le cose si fanno. A proposito di predestinati, venerdì era per chiudere un po' il cerchio e per tenerci aggiornati sugli ascoltatori che hanno fatto parte di questo programma, un po' come abbiamo fatto con Eros, il nostro ascoltatore che aveva avuto l'incidente e poi era diventato paraolimpico. Venerdì ha scritto il babbo di quel ragazzino che corre sui go-kart, ve lo ricordate? Federico. Aveva scritto: buongiorno, vi volevo informare che Federico oggi ha ottenuto la pole position su oltre 40 concorrenti al mondiale mini 60 VSK, che sarà una categoria di go-kart. Domani, cioè sabato, iniziano le match di qualificazione, vi teniamo aggiornati. Non ci ha tenuto aggiornati, ma io sono andato a vedere ieri sera e Fede è salito sul podio, credo che sia arrivato terzo. C'è un'intervista, andate a vederla sul suo profilo Facebook, ci passate attraverso il nostro, che voi siete qui Radio 24, perché fa troppo ridere. È un ragazzino di 10 anni che viene intervistato da un omone col microfono e dice: allora, com'è andata questa gara? Ma sono partito bene, poi ho fatto quell'errore, mi è nato 3 secondi di penalità, alla fine però al primo podio, il podio va bene. Vabbè, appunto, lui è chiaramente un predestinato, è uno che è nato per stare seduto su una macchina da corsa. Se come lui, la gran parte di noi non lo è un predestinato, appunto, nella vita ci sono bisogno di motivazioni. Oggi parliamo di quello, parliamo della ragione per cui facciamo le cose, dei motivi anche casuali che ci portano poi a diventare quello che facciamo sul lavoro, a diventare le persone che cerchiamo di essere, o anche semplicemente a proposito delle passioni della nostra vita. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook del programma, e voi siete qui Radio 24. Se non avete né un SM né un cellulare né un profilo Facebook, scrivete a voi siete qui @radio24.it. Emanuele dice: ho cominciato l'università per poter fare quello che volevo e dovevo fare. Ho cominciato a lavorare per i soldi e per avere un ruolo nella società. Ho cominciato a fare vela per ritrovare quel senso di libertà. Ho cominciato, anzi non ho mai smesso di farmi delle domande, perché la vita è davvero troppo breve per non cercare di percorrere tutte le strade. Vabbè, Emanuele appartiene alla categoria dei poeti, filosofi, ascoltatori. E poi invece qualcuno mi scrive, come ad esempio, dov'è l'era? Giorgia: la motivazione per cui ho cominciato a correre è perché volevo essere sicura di avere sempre abbastanza fiato per scappare, se mai ce ne fosse bisogno. 349-238-6666, qualunque sia stata la motivazione che vi ha portato a fare qualcosa che vi piace o che dovete fare, oggi si parla di quello. Lo si fa perché Gianni, tempo fa, ha deciso di fare una cosa importante, che è una sua passione, poi ce la racconterà meglio, a causa del suo dentista. Il motivo per cui ho ripreso a nuotare è abbastanza curioso. Lo spunto me lo fornì involontariamente il mio dentista durante una seduta. Andò così. È una settimana che penso a questo molare. Ormai quello che prima era solo un fastidio è diventato un dolore. Entro nello studio dentistico sorridente, quasi spavaldo. Il dentista mi chiede cosa provo e io minimizzo. Lui ordina una radiografia. Ora sono disteso e mi accorgo che la spavalderia iniziale ha lasciato il posto alla preoccupazione. Lui esamina in silenzio la lastra che sta appesa alla lavagna luminosa. Io chiedo delucidazioni. Lui rimane sul vago e poi arma una siringa. E questo non è mai un buon segno. Durante questa operazione usa la sua consueta tecnica di rilassamento. Diversi anni fa ebbi un trauma con la macchina, con l'incidente, no? E praticamente sono stato operato diverse volte alla bocca, quindi praticamente questo qui mi comporta un certo timore tutte le volte che vado dal dentista. In quel momento avevo paura, sì. Mi chiede per l'ennesima volta quali siano le mie attività sportive. Allora gli ricordo che vado a scalare e che faccio immersioni subacquee. Si rivolge all'assistente e mentre inietta l'anestetico, ironico, le ricorda che ci vuole coraggio a fare certe attività. Lei accenna un sorriso. Inizia il lavoro e, dato che la carie è abbastanza profonda, continua il suo monologo. Sostiene, riguardo questi sport, che, oltre ad essere pericolosi, hanno un interessante denominatore comune. Si sviluppano su una dimensione dello spazio verticale. La subacquea negativa, l'arrampicata positiva. Poi mi chiede: non ci avevi mai pensato? Timidamente faccio cenno di no con il dito della mano destra. Ho in bocca un cannello aspiratore che certo non facilita la conversazione. Lui, incurante delle mie difficoltà nell'esprimermi e dei miei gesti, che avrebbero dovuto essere interpretati come una supplichevole richiesta di ulteriore anestesia, prosegue intimandomi di stare fermo perché è abbastanza vicino al nervo. Poi continua e nota quanto questi sport differiscano con le abitudini della maggior parte delle persone, che solitamente svolgono le loro attività su un piano. Vivere in orizzontale ha indiscutibili vantaggi. Puoi guardare le persone negli occhi, lavorare, fare cose più piacevoli. Per una risposta sensata a questo punto dovrei dimenticare l'ansia, il trapano, il dolore, togliermi di bocca l'aspiratore e, in più ma non ultima, trovare la voglia di farlo. Allora opto per la decisione più ragionevole, quella che in molte occasioni mi ha sempre aiutato. Scelgo di rimandare. Dopo questo episodio però la mia passione per la scalata e per la subacca non è terminata, ed anzi sabato prossimo andrò all'Isola del Giglio a fare un'immersione, spero. Finalmente lui termina le sue trivellazioni. Mi avvio all'uscita e per un attimo intravedo la mia faccia in uno specchio. Sembro un naufrago ripescato in mare. Il medico ricompare da una porta di servizio. Mi chiede che ne penso. Rispondo che è tutto ok, avverto solo un leggero fastidio alla gengiva. Lui scuote la testa, non si riferiva al dente, ma alle mie attività. Io faccio finta di non capire. Lui si dilunga nuovamente sugli assi cartesiani e le geometrie della vita. Sembra un fiume in piena che tracima su aree non sue. L'ansia non mi è ancora svanita, ma adesso quello che più mi infastidisce è come sia riuscito a scoprire un altro nervo che stava ben nascosto. E non riguarda lo sport, ma qualcosa che ha a che fare con stati emotivi che solitamente cerco di camuffare agli altri e in molti casi perfino a me stesso. Nonostante sia lui che la segretaria siano lì in attesa di una mia replica sensata, dalla mia bocca intorpidita esce qualcosa di incomprensibile per via dell'anestesia. Segue un breve silenzio. Lui si toglie camice e contemporaneamente ripone anche gli abiti da psicologa. Finalmente esco. Fuori cammino fra la folla del centro. Mi sento felicemente stupido per essermi liberato dell'ansia e da quel ficcanaso. Successivamente mi rendo conto di percepire poca sensibilità al labbro, ma in compenso di avere qualche perplessità in più. E per questo ho iniziato a nuotare. Per questo, perché è orizzontale. John, I can't go back to the hole again. I'm gonna keep my bag, I'm gonna keep my sins. I'm staying downwind, I'm staying downwind. I can hear the dogs, I can hear the chains and the blood. Il dentista di Gianni, secondo me, è un genio. Ed è giusto che lo sappia. Il mio dentista si limita a fare il suo lavoro. E in effetti non so cosa sia meglio, se concentrarsi su ciò che fai o distrarre il paziente con riflessioni filosofiche. È evidente che sarebbe meglio non stare mai seduto davanti a un signore con un trapano in mano, anche perché poi molto probabilmente ti chiederà dei soldi. La cosa più interessante del racconto di Gianni, oltre alla riflessione su orizzontale e verticale che mi sembra talmente brillante che è meglio che la lasci lì, è la situazione in cui lui ha ricevuto il consiglio di riflettere sulle proprie passioni. Un consiglio che l'ha portato a praticare un nuovo sport. Un suggerimento non richiesto, ma che è stato utile. Lui era disteso e con la bocca spalancata, con dei ferri dentro, e non aveva certo modo di sottrarsi alle parole. Però ci ha ripensato, e in qualche modo gli è stato utile. Perché a volte è da suggerimenti non richiesti che vengono le idee più interessanti. Perché la ragione per cui facciamo le cose è misteriosa, e spesso non dipende completamente da noi. Questa storia mi ha fatto venire in mente un'altra storia che ho sentito alla radio qualche tempo fa. La storia di uno scienziato finlandese, che ovviamente non ricordo come si chiama, una roba tipo Ilkka Kanerva, credo. Che non lo so se forse in realtà è il nome di un atleta o di un ministro. Vabbè, tant'è. Lui era un microbiologo, ricercatore molto talentuoso e poco famoso, di cui alla radio raccontavano la storia. Lui ha studiato in America e poi è tornato ad Helsinki e ha fatto una certa scoperta, che anche questa ovviamente non ricordo, ma salverà sicuramente qualcuno prima o poi. La cosa interessante però è il motivo che l'ha condotto a studiare materie scientifiche. Raccontava che da piccolo una volta si era sbucciato un ginocchio mentre andava in bicicletta, una cosa che sarà capitata a milioni di bambini, e che suo nonno, che era presente, lo aveva medicato e gli aveva messo un cerotto. Lui gli aveva chiesto perché bisognasse mettere il cerotto e il nonno gli aveva risposto che era per non fare venire in contatto la ferita con i batteri, e poi così il sangue avrebbe smesso di uscire e poi gli sarebbe venuta la crosta e sarebbe nato tutto a posto. Lui però non si era accontentato e aveva chiesto cosa fossero i batteri. Aveva capito che erano delle cose piccolissime, invisibili e pericolose, ma era rimasto molto più interessato dalla faccenda della crosta. Era terrorizzato dall'idea che il sangue potesse non smettere mai di uscire e non aveva mai pensato a quella cosa lì, cioè che quello che di solito sta dentro al corpo è giusto che ci rimanga dentro. E allora aveva continuato a fare una faccia strana perché non era affatto rassicurato. E il nonno capiva che avrebbe fatto meglio a proporre delle spiegazioni più articolate, più comprensibili. E nelle sue parole sempre più precise, visto che pazientemente si era documentato, c'era una sorta di amo che pescò il giovane scienziato. E l'enorme interesse che si scatenò nel piccolo scienziato, nel piccolo ricercatore, per il funzionamento del corpo umano, delle cellule e degli organi, o della vita in generale, non è finito ancora oggi. Anzi, è diventato come una specie di carburante per scoperte e ricerche. E tutto è nato lì, diceva lui, da un nonno che non voleva fare altro che mettere un cerotto su una sbocciatura. Kertomille tarinoita, sillä kukat ovat hyviä kuuntelijoita. Questo è, lo trovate sempre sul sito di Radio 24, la pagina di Voi Siete Qui, il brano che i brani che mandiamo. Su questo però ci vorrei spendere due parole, perché Tiziano mi dice che è un pezzo jazz finlandese, perché si parlava di finlandesi e quindi non ci facciamo mancare niente. 349-238-6666. Io ho una passione per gli sms totalmente fuori contesto, ma devo dire che forse si sta sviluppando una passione ancora maggiore per gli sms che non sono totalmente fuori contesto, cioè che sembrano fuori contesto ma non lo sono. Forse sì. Mi scrive Adil. Diciamo, il tema di oggi era la ragione che ci spinge a fare le cose, no? Le motivazioni nascoste, i consigli di qualcuno, qualcosa che avviene durante la nostra vita e che poi ci fa riflettere, ci porta a fare qualcosa. E Adil mi scrive: ciao, mi chiamo Adil, ho provato per caso a fare il fantino di cavalli e adesso sono campione di Marocco, ho 219 vittorie quest'anno, ciao. Però Adil, la ragione per caso, lui dice. Ma per caso non è una ragione, però. E invece Max da Bergamo mi scrive: ho cominciato a rubare auto a 10 anni perché mi dicevano che ero bravo, un predestinato nella mia vita. Ne ho rubate più di 1000. Poi la prigione mi ha fatto smettere la voglia. Mi ha fatto smettere, ma la voglia dopo tanti anni c'è ancora. Guarda, Max, forse è inventato sto sms. Però se è inventato, c'è del piccolo genio in chi l'ha scritto. 349-238-6666. E tutto è cominciato perché una persona pacata da Firenze ci ha scritto il motivo per cui aveva cominciato a nuotare ed era stato il suo dentista. Pronto, Gianni? Ciao, salve Matteo. Ciao Gianni, dicevo persona pacata perché si sentiva anche dalla presentazione che hai un tono, direi, più orizzontale che verticale, parlando di geometria della vita, no? Beh, in questo momento sì, perché anche oggi sono stato a nuotare, quindi ho ancora il naso un po' invaso dal cloro, diciamo. Quanto nuoto fai al giorno? A settimana o al giorno, non lo so. Ma al giorno, durante gli allenamenti, 2 chilometri, 3 chilometri. E quante vasche sono, quindi? Non farmi fare il calcolo, dai. Sono 150, vai. Cioè, quanto nuoti di fila? Quanto tempo nuoti di fila? Un'ora? No, anche di più, un'ora e mezzo. Ma scusami. Tanto non è che proprio di fila facciamo delle serie ripetute, cioè tipo facciamo 10 vasche da 100, che ne so, 5 da 200, poi ci fermiamo, capito? Facciamo degli esercizi. Ma lo facciamo con chi? C'hai una squadra? Sì, c'è una squadra, infatti, perché in realtà poi dopo alla fine io ho cominciato a nuotare da solo, poi mi hanno contattato se volevo entrare in una squadra di nuoto e sono entrato con questa squadra e ci divertiamo un casino. E fate gare ufficiali, quindi? Sì, facciamo gare ufficiali. L'anno scorso addirittura sono andato a fare i campionati del mondo. Ecco, questa cosa me l'hai raccontata prima fuori onda. Sì. Cioè, tu praticamente ti avvicini al nuoto o riprendi a fare nuoto, perché il tuo dentista ti fa un ragionamento. Il tuo dentista è un genio assoluto, comunque. È una persona sì, che sì. Vorrei sentire qualche volta al telefono, perché mentre ti ravanano i denti ti parla di, come le definisci tu, di geometria della vita. E sto dentista ti dice sta roba, ma c'hai mai fatto caso che i tuoi sport sono tutti in verticale, l'orizzontale, il verticale? Tu, grazie a sta roba, ti rimetti a fare nuoto e poi vai a fare i mondiali under o over, che cosa? Sì, sono delle gare master, si chiamano, che sono aperte a tutte le età, ci sono anche da 25 anni in poi, diciamo. È stato un bel evento quello lì, perché c'erano gente da tutto il mondo che partecipava lì a Riccione. Ma in vasca comunque, cioè in piscina? Sì, in piscina, sì, sì. E tu quanti anni hai adesso, Gianni? 50. Hai 50 anni. E cosa fai di mestiere? Ma di mestiere mi occupo di banche dati, diciamo, di grandi database, sai, grandi quantità di dati. Ma sei, scusami, per una volta per tutte cerco di chiarirmelo. Quel lavoro lì è il lavoro del sistemista? No. No. Il sistemista è un'altra roba. No, il sistemista è un'altra roba. Il sistemista è quello che, diciamo, che fa in modo che tutto funzioni fra i vari server che contengono queste grandi quantità di dati. Ma senti, tu ce l'hai una famiglia, Gianni? No, al momento no. Ah, al okay. momento sono single. Ah, ok, no, diciamo, perché tutto sto tempo che dedichi al lavoro. Poi, infatti, cioè, quello sottrae un po' di tempo anche, diciamo, ad altre cose, ovviamente, a fare tante attività. Beh, immagino. Però mi è piaciuto il per ora, Gianni, perché, insomma, chi lo sa, no? Non è che a 50 anni uno... Uno a pendere scarpe. Gianni, ma... grazie mille, in bocca al lupo. Abbiamo gare in previsione in futuro? Sì, a dicembre credo comincino le prime gare. Benissimo. I regionali. Poi dopo dovremmo andare a fare gli italiani e poi gli europei ad Eindhoven, credo. Benissimo, in bocca al lupo a te e a tutta la squadra. Ciao, saluta grazie. Il dentista, ciao Gianni. Bene, ciao, grazie. Sono un danzatore, quotidianamente mi muovo e lavoro sulla coordinata emozionale verticale tra cielo e terra. Una quotidiana lotta tra le forze di gravità e centrifughe. Costantino non poteva che essere durante una delle sue attività, in questo caso in verticale, la foto che Gianni ci ha mandato, che trovate sul sito di Radio 24, la nostra pagina, voi siete qui. Non è subacquea, è aggrappato a una roccia praticamente, si sta in realtà, credo, calando, è attaccato a una corda, è su una falesia, quindi ha una maglietta rossa, dei pantaloni lunghi e le tipiche scarpette da arrampicatore, è imbragato e sta più che cercando di salire, credo proprio cercando di scendere. Motivazione. Esposizione delle ragioni che giustificano una decisione, specialmente di ordine giudiziario o amministrativo. In psicologia, quanto concorre a determinare il comportamento di un individuo o anche di una collettività. Etimo, derivato di motivare, data 1839-41. Andiamo avanti e chiudiamo la puntata di oggi raccontando una cosa, una cosa completamente diversa, un progetto che Radio 24 sta facendo insieme al Festival delle Lettere, che è un festival che si tiene a Milano più o meno in questi giorni e che si conclude domenica. Ve lo ricordate Disperati Mai? Disperati Mai è un progetto che la radio ha portato avanti da tempo, da quasi un anno ormai a questa parte, per avere delle testimonianze di imprenditori e non che fossero in crisi per la crisi, perdonatemi il gioco di parole. E a disperati mai, @radio24.it, sono arrivate un sacco di storie. Di queste storie, di queste lettere, ne sono state scelte 5, e appunto Radio 24, insieme al Festival delle Lettere e, nella fattispecie, insieme al London Short Film Festival, giovedì 11 ottobre, alle 18.30, nell'auditorium della radio e del gruppo Sole 24 Ore, quello, per capirci, dove facciamo anche i nostri live, farà una serata in cui proietterà 5 cortometraggi, che sono 5 storie, 5 mini film ispirati a 5 lettere che sono arrivate appunto all'indirizzo Disperati Mai della radio. Oltre a proiettare questi short film, questi cortometraggi, interverranno nella serata Fabio Tamburini, direttore della radio e di Radio Core, Sebastiano Barisoni, che non ha bisogno di presentazioni, comunque conduttore di Focus Economia, e Oscar Giannino, che è conduttore di Nuovi in Punto, la versione di Oscar qui su Radio 24. Quindi se avete l'ingresso è completamente libero, quindi se avete voglia di partecipare a questa più che serata, direi tardo pomeriggio, dovete semplicemente venire qui giovedì alle 11, giovedì 11 alle 18.30, cioè questo giovedì, e prendere posto all'auditorium qui di Radio 24. Ascolterete, vedrete questi mini film e sentirete gli interventi di Fabio Tamburini, Sebastiano Barisoni e Oscar Giannino. Noi per presentare questa serata abbiamo scelto una di queste lettere, di queste lettere che sono diventate un film, e ve le leggo. Mi chiamo Paolo e vi ringrazio. Io non sono un imprenditore, sono un impiegato di un'impresa edile con una storia alle spalle di 25 anni. Un'impresa sana, che ha sempre stupito per come tratta i propri dipendenti, accolti come dei figli o dei fratelli. L'impresa ora è in crisi. I miei titolari hanno un volto mai visto, scuri, la faccia di quelli che ogni volta che ti vedono vogliono chiederti scusa. Scusa perché non riescono a pagarti. Si sono dissanguati per onorare debiti nei confronti di tutti, ma purtroppo la crisi morde e fa male. Fa male sapere che si vantano crediti per oltre 800.000 euro e nessuno sa dirti quando saranno evasi. Fa male perché magari quando riesci a recuperare qualche soldo, vedi che vengono risucchiati in un attimo dalla banca. Fa male vedere tutta la burocrazia che sembra fatta apposta per darti il colpo di grazia. Fa male vedere politici che dopo aver governato per anni vanno ancora in TV a dare ricette o fantomatiche soluzioni a quanto sta succedendo. È tutto molto triste. La sera a casa cerco di sorridere e far finta di niente, ma la malinconia traspare e si accentua quando vedi che i tuoi figli se ne accorgono. Il giorno che ritorneremo a sorridere, penseremo a questo brutto periodo, che magari ci avrà reso più forti. Più forti perché sapremo che l'abbiamo superato grazie a noi stessi, e non ai tanti millantatori che si professano salvatori. Un caro abbraccio a tutti voi. My old friend, well time, old friend of mine. Questo messaggio è chiarissimo e ha una motivazione sincera, perché dice: ho sempre considerato la palestra un'attività per ristretti di testa, non si capisce bene perché, da 2 anni ci vado 3-4 volte alla settimana e con soddisfazione. La motivazione è che ho scoperto un lato narcisistico di me di cui non sospettavo minimamente l'esistenza. Ma il miglior messaggio di tutti è questo, Enzo, che dice: buonasera, io credo che l'unica ragione per cui si fanno davvero le cose sia proprio per caso. Grazie a lui, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Fabio Cantadori e a Margherita Ina, e grazie soprattutto a Stefano D'Andrea. Grazie a Gianni, ovviamente, il nuotatore, scalatore subacqueo. Oggi era la sua storia e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Fabrizio di Belluno, la storia di domani è la mia e parla di una scelta difficile e di un contrasto tra la mia professione e la mia coscienza. Questa storia è la mia e io sono qui.